test audio, test audio. Oh yeah. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno, cambio. Cappa, chi sei? Lupo Grigio. Basso, Lupo Grigio, perché c'è molto QRM, capito? Ti copio un po' basso. Non so se tu mi ascolti bene, ho capito. Dovresti metterlo in macchina, così almeno non c'è problema di batteria. La batteria ricarica, bravo. Cara gara, andare. Ora. Ok, non c'è problema, va bene. intanto io sto, mi sto controllando l'antenna con la, la bibanda, mi sa che è partita. Marziano sia stato talmente bravo di amplificare un'antenna che c'è vicino, bassa bassa, la differenza da 7 a 9,20, quella bassa con un piccolo amplificatore a 9,20, questa, quella alta appena 7, adesso la controllo con strumento, sperando che non sia a buttare. Buonasera. Va bene, prova, vediamo un po' se si va a buttare. Comunque ci aggiorniamo domani mattina, mi hai detto, verso, verso quello là, dai. Va bene, va bene. Avanti, buonasera, chi è? Ehi dai, ciao Gianni da questa parte. Ciao Claudio, ciao anche a Gianfranco. Buonasera Gianfranco, e allora? Ciao ciao, buonasera. Io purtroppo sono impegnato perché c'è un problema con un'antenna di banda. C'è un problema, non lo so neanche se c'è un problema, devo fare una misurazione per vedere come mai, basta pure che non sia un raccordo, questi sono i soliti PL Ocra, che rompono le palle ogni tanto. Anche quelle sono rotture di palle già fatte, anche quelle è così. Ciao Gianni, buonasera, ben ascoltato, sto usando la radio gemella, è la tua MB+5 da tavolo, esattamente a metà preamplificazione, mic gain al massimo, potenza 15 watt, tutto grappa del Rogero. Sei col Gala? Beh, non lo riconosci il BP. Ma non mi piace il microfono, non mi piace la modulazione, è un po' citofonica. Prova a mettermi delle balle interne. No, c'è diversa cosa, capito? Allora, vabbè, può darsi che era il tono da cambiare, vediamo un pochino sollevando ancora, ecco qua. Va bene, va bene. Un po' citofonica, questo è il microfono malato tuo. Lo so, magari con un certo radio non si adatta. No, io sono in cuffie. Citofonica non la sento molto. Posso regolare, vedi qua. Posso fare alcune regolazioni. Così dovrebbe essere troppo anche. Fa passaggio lungo. Perché stavo impartendo con questa radio perché non riuscivo, sono andato in FM e non riuscivo più ad andare in AM. Perché? Perché sempre queste radio che sono cattivate di un gab, sono dovuto entrare nel menu e praticamente c'era, l'avevo spostata senza volerlo, l'avevo messa in Germania invece che in Italia, quindi in Germania non c'è l'AM. Non so, io in FM esco una meraviglia, una M già va bene, dai. Poi magari le adatterò qualche altro microfono, ma a me interessa che la radio funzioni bene. C'ha dei picchi di modulazione allucinanti. La radio ci sta funzionando, però vabbè, io sono sincero, la radio ti ho sentito con radio migliori, dai, nel senso la modulazione migliore. Pensavo che fossi con qualche HF che stavi provando, sinceramente, di quelli che non si adattano. Cosa vuoi adattare già? Non lo so, non è che c'è qualcosa toccato a tu, guarda, io sono in cuffie, stavo parlando con Alghiero, mi ha detto spettacolare la modulazione, anche Gianfranco è molto pignolo, controlla se c'è qualcosa inserita lì, non lo so, io sono in cuffie ed è uguale agli altri, abbasso leggermente, la metto a zero, i toni sono a zero, non è assolutamente citofonica, comunque, vabbè, se per te è così chiederò altri controlli, dai. Non c'è problema, io mi ascolto in cuffie, sono sembra uguale agli altri, così, in questa posizione, mentre addirittura in questa posizione è molto, molto più alta. Va bene, dai, non c'è problema, intanto sono in fase di sperimentazione, ancora devo sollevare, vedere, ora, 1, 2, 3, prova radio, teniamola bassa così però dai, se no i fascia la recci. Va bene così, KK e K del Rogero. Aspetta, proprio con il Galaxy, perché io sono adesso ti sto ascoltando col Cobra e magari l'ascolto diverso, dai, la cassa è diversa e non vorrei dirti una cosa per un'altra, ti ascolto col Galaxy. Prova col Galaxy, io ti dico quello che mi hanno detto, poi se parte citofonica, non so, ma mi sento belli acuti, belli alti, un po' tutto sento, dai, va bene. Claudio, se vuoi ti mando in digitale, registrato. Mandamelo, perché uno è ascoltare con un baracchino, ascoltare con una radio professionale, ma io la ricezione ce l'ho sul K, senza antenna, mi sto ascoltando col K, quindi le cuffie sono inserite nel K, la ricezione è abbastanza buona, non so, evidentemente lui c'ha il problema sul ricevitore della sua radio, non so, fammi sentire la tua, Gianfra. Sul K, sul 430, che è micidiale come ricevitore, quindi ascolto la modulazione è molto bella, anche abbastanza spinta, perché non sono manco a metà di Mickey Gain, quindi se dovessi aumentare, ecco qua, così ho aumentato ancora, così al massimo il Mickey Gain, il microfono possiamo salire ancora, e ce n'è da salire, però mettiamolo così che va più che bene. Ok, dai, va bene, adesso le do una sistematina, una pulitina, comunque nuova e sono contentissimo, non contento, contentissimo. Ascolta, e quanti watt ti sta dando la farina? Mi sta dando quasi 18 watt in AM, 23, 24, quasi 25 in FM. È troppo tirato, troppo, perché lì se gli attacchi l'amplificatore non va bene. Troppo tirato, eh? E mettila al minimo la potenza del power a vedere quanto ti dà. Allora, così al massimo e così è al minimo. Così al minimo dà esattamente 4 watt e 5 modulati. Quindi va da 5 watt a 15 watt. No, è normale, leggiti il manuale. Sono 20 watt, 10, 15 watt in AM e 20 in... cioè scusa, è 25 in SSB, non in FM. 20, 25 in SSB, non in FM. In FM è sempre 15 watt. E invece misurano nei canali sotto? Nei canali sotto? Canali sotto. A, giù, A, B, C, D, E, F. Scendi di un'attacca scendi. Dei canali, delle frequenze. Quindi dalla D devo andare alla C. No, contrario, così sali, non scendi. Sempre uguale, alla potenza massima, allora, così sono al minimo, aspetta che lo rimetto com'era, ecco qua, sempre uguale, 5 watt potenza a 0, 15 watt potenza al massimo, con picchi positivi a 16-17. Io l'ho regolata a 9 watt, anche il mio invece l'avevano proprio tutto abbassato per usarlo con lineare, ce n'era un watt e mezzo, ho regolato a 9 watt. E Gigi mi ha detto che va bene così. Questo è originale, non è mai stato toccato niente, qua lineare non ce ne va, questo io lo uso per fare questo locale con la potenza della radio, il lineare su altre radio, sugli altri vintage, questo lavora così già, quindi non lo tocco. A parte il fatto che posso regolare la potenza, quindi va bene lo stesso, metto la potenza a 5 watt, la posso lasciare anche a 15, perché te lo dimostro, aspetta che aggancio e te lo faccio vedere. Anche a 15 tu lo puoi usare quello, non ce l'hai trattato a 20, scusa. Appunto, quindi a mano, ma che cosa devo abbassare? Io ho l'ingresso a 20 watt, quindi ho l'ingresso. adesso a 20 watt, perciò lo lasciamo così, non tocco niente. Non l'aggio manco da aprire nulla, vado adesso una pulitina, c'è un po' di polvere, manco un graffio, va bene così. Ok. Allora mi devi dire però se la modulazione così è troppo alta e la metto così, guarda, 1, 2, 3, 4, va bene così? Sì, sì, va bene. La nota è la battaglia, questa è la salute. Va bene, non è rompiballe, dai. Va bene così. Così si può utilizzare, dai. No, va bene Claudio, no, l'apparecchio purtroppo riceve, va bene, tante volte sono gli apparecchi che ricevono diversamente, e cosa devi fare? Ma io glielo so, sì. Io glielo so, io perché quando do i controlli seri li do col K, non li do con i baracchini do approssimativamente, capito? KK, questo cos'è? Ola, ola, ola, ola. Questo cos'è? Norma, ah, ecco 10 più, normale, SWR, calibrazione. Come cacchio si fa per la calibrazione qua SWR? Dov'è il pomello? Ma lo uso di WR, non me lo ricordo più io. Io non lo uso mai, lo uso sempre lo smetto che c'ho esterno. È preciso comunque quello lì, eh. Metti caro, caro da dove va? Metti caro. Io butto calma, è ok. Non lasciamo venuta. Metti calma, c'è il pomello della calibrazione. Ah, eccolo qua, calibrate. Ma che la polvere, vai. Ah, ecco, calibrate. Calibrate. Vabbè, è così a calibra, no? Calibrate, è così a calibra. Ah, eccolo qua, calibrate. Oh, oh, oh. Stazionarie. Zero. Perfetto. Non è la stazionaria, manco si muove. Contento, sì, almeno c'è una radio come si deve. Ah, beh, senza ombra di dubbio. Senza ombra di dubbio, no, non ci sono problemi. Poi la conoscevo Radio Danilo, quindi non ce n'è problema. Sono più che contento. Abbassiamo anche la potenza, la regoliamo. La abbassiamo appena. Siamo a 7 watt, 8 watt, top. A 9 va bene, Claudio, a 9 giusto. 9 watt, allora la mettiamo così, eccolo qua, 9 watt. Qual è la potenza giusta? 9, 10 watt, va, proprio 10. Se no è troppo tirato, sforzerò troppo il finale. Lo so. Lo so che sforza il finale, però non gli compreso io, non dico, che cosa che devo controllare ancora. Ah, ecco le fighine. Ah, fighine, ok. Va bene. Va bene già, dai, fammi mettere in ordine qua, c'è un casino nero. Ci sentiamo tra un attimino. Sono qua io. Sono qua, vediamo un po' se Gianfranco ha finito di riparare le stampelle. Con l'organo elettrico pure, mamma mia, per carità. l'ho fatto là. Devo mettere che stavano beccando sul coso, sul come si chiama, sullo stilo. E non sai cosa fanno con le bastane, si mangiano anche il capo. Poi di tutto fanno, poi guarda, per carità del cielo, ma per carità, sto andando da una cosa all'altra, riparando a destra e a sinistra con questa... Con questo tempo che sta facendo, oggi c'era caldo, figurati c'era il bottoncino che è blindato che era caldo. Magari adesso che se il coso scende sotto zero. Sì, la stamattina verso mezzogiorno un quarto c'era un bel sole, tutto picchiava fuori. Poi di colpo si è nuvolato, vicino a casa ormai non ha fatto così. Si è nuvolato di colpo. Non si capisce più tutto, ma veramente. Tra una cosa e l'altra, adesso, però questo era come fosse il coso, la capsula esplosa magari per una qualche scarica, invece deve essere la tratta lungo il traliccio, quella di sotto magari che converte da Ceflex a cavo più sottile, una iattura veramente, non ci volevo. Ti ho detto, le conache fanno un bel danno, vicino a casa ci sono delle signore che danno da mangiare i gatti, li mettono il piatto con la roba da mangiare, fanno le conache, mandano via i gatti e mangiano, i gatti si incazzano, capito? Poi si bisticciano, la conacchia si alza in alto per beccare il gatto si incazza, cioè un'altra volta si sono messi quattro conacchie contro un gatto, alla fine mi sono messo io in mezzo e li ho divisi, praticamente volevano ammazzare il gatto, in quattro l'hanno attaccato, gli ho battuto le mani e l'ho fatto volare. Sì, anche qua l'ho preso, fanno un gruppo oramai. Allora si mettevano tre sull'albero, uno andava a attaccare, poi quando vedevano il gatto che andava a attaccare gli andavano addosso. Poi non so, veramente adesso è un problema a salire su. Gianfranco, ma se non vedi nessuna cosa non ci salire, cosa ce la si sale a fare? Magari non ha toccato nulla. Se non vedi che c'è qualche difetto. Il difetto lo vedo che c'è lo strumento, me lo dice. Adesso bisogna vedere se è un difetto di cavo, di tratta che passa anche sottoterra, ma quello è difficile perché è grande il cavo, e che te posso dire, è grande, guarda, di quanto, come diametro, una tazzina da caffè, quindi figurati se le fa qualcosa. Il problema sono i raccordi, e il punto debole sono sempre i raccordi, che magari sono andati a beccare lì e quindi hanno fatto danno lungo il cavo che portava lì, insomma anche quello è blindato, c'è doppia scalza eccetera, quindi è difficile che lo buca. È un casotto, perché se l'antenna a scenderla, non vorrei trovare niente, sono 18 metri di cavo, di tubo. Allora, ma cos'è, direzionale? No, è una volgarissima 500, com'era? 512, è alta, quanto sarà? Fa 5 metri, in vetroresina, però guarda, rispetto a quelle che facevano, anche se Diamond, poi stanno tutti andando e facendo le cose in economia che durano 5 anni e basta, mentre l'altra Diamond che ce l'ho a terra, che era anche tribanda, tra l'altro lavorava anche in 1000, quella lì è durata roba di 15-20 anni, guarda. Purtroppo era a terra, per altri motivi si è un po' corrosa dentro e non si può recuperare, però funziona sempre, però se la metti con l'oscillazione del vento si spezza dentro, capito? Anche se fuori è buona, però dentro si spezza. Poi c'hanno il mal di pelle, no? Anche quelle, mamma mia. Ogni tanto come capita uno che non riesce a entrare, di questi maledetti PL. Infatti non ci metto neanche gli N perché c'è il riduttore N, perché gli N è peggio che mai, con quell'inclinazione che prende quando c'è il vento, le spaccherebbe in un momento che non si dica. Scusa un attimo, Gianfra, dai, mettiti di buona lena, piegati le maniche e vai, quando fa quel tempo. E altro non c'è da fare. Stavo guardando quanto costa, perché poi vediamo un po' cosa ci offre il mercato ha qua, non so va proprio, ecco 510, c'è anche il nome, mi ricordavo, oh. 151 euro, allegria. Ehi, dai, non è tantissimo, ma poi magari non bisogna cambiare l'antenna, magari è qualche altra fesseria. No, magari no. Vediamo un po'. Sì, la stanno facendo veramente di l'altra ne ha due, di questa è quella di riserva, che va, gli ha fatti anche riceventi normali, quelli che non me ne frega niente. L'altra invece è pienamente efficiente, però gira, c'è un mezzo pensiero, ci metto una 200, così è più leggera, meno ingombrante magari, tanto che se ne frega, ma non c'è più niente. Beh, ne approfitti per sostituirla. C'è un'antenna, sì, tanto una volta che inizia a fare questo, può essere anche un avversatore partito, quelle cose lì, ti devi mettere lì, fare un casotto del tempo, togliere tutta la protezione che c'ha sulle giunture e farla a pezzi, credo che ci abbia tre cosi, no? tre attacchi, quindi figurati, ne basta che uno dia fastidio, poi magari fa anche piena d'acqua. Magari te la puoi utilizzare per costruirti qualche altra antenna, così gli elementi per costruirti qualche altra antenna. Sì, se vedi com'è complicata dentro, ci sono bobine, condensatori, tutte fatte di precisione, capito? Quindi è un lavoro... Vediamo, c'è anche da 300 anni, non so, vediamo un po' cosa. 86 euro, però non so quanto mi lunga, vediamo un po'. Tre metri. Ma magari anche meglio per i ricevitori, perché più alte sono, a volte più strette sono come banda. Vabbè, ci penseremo, ma pensare che con la 7000 che era qua sul tetto, sentivo anche odiare, però era in quelle vecchie, capito, quando le cose le facciamo fare, adesso sono tutti tutti vecchi. E adesso te le prometto che ti possono durare un po' di tempo e poi finita la garanzia ti partono tutte le cose su questo. Tutte le cose, lavatrici, televisori, tutto quanto fatto, hanno una scadenza, tutte le cose adesso hanno una scadenza. Non è come prima che doveva avere 20-30 anni un'antenna. E adesso sono quasi intenzionato a prendermi la Blizzard. L'hai vista? Guarda, quella cosa è una cosa ingegneristica, lo sai come si chiama? Obsolescenza programmata, quindi si fa in modo che non duri altrettanto un oggetto che è in vendita, capito? Quindi è così. Cosa mi hai chiesto? Se la conosco? La Blizzard, per la CP, la Blizzard, c'ha i radiali piccoli e in più c'ha il cerchio che tiene il radiale. Mi è sembrata di vederla, dovrebbe essere 5-6 metri, una cosa del genere, no? Sì, è tipo un amato, voilà. Però c'ha radiali più piccoli, però l'unica cosa che c'ha è il guadagno dei dB, che è poca roba, l'amato parliamo questa qui ne ha tre al massimo. Guarda, il giorno che vedo una mantova che c'hanno 9DB, mi taglio i capelli. Guarda, non ce l'ha neanche una Diamond la 510, non ce l'ha neanche la Diamond 510 9DB, non HF, che è più facile fare guadagni. Figurati, forse se fosse magari lunga, che ne so, 20 metri l'antenna, no? Una collineare praticamente per 27, può darsi, ma poco ci credo. E vabbè, ciò che scrivo è quello, poi bisogna vedere quanti ne dà realmente. Appunto, anche perché bisogna dire 9dB rispetto a che cosa? Se mi dici 9dB rispetto a un pezzo di fil di ferro di 10 cm, e allora sicuramente sarà così, perché se noti non ci mettono mai rispetto a che cosa. Adesso non ricordo se è 7 o 9, adesso non mi ricordo bene, comunque c'è anche così. E vabbè, comunque la mattina è sempre stata una signora antenna e peccato che non la fanno più. Adesso c'è quella dell'Assirio, che è molto performante, tipo la mantova, e quella dovrebbe andare bene, che ce l'ha presa Riccardino, ce l'ha presa anche Marco Scorpio, e dice che va bene. La nostra richiera la Game Master dell'Assirio? Sì, Game Master. Ho capito. E costa più o meno lo stesso, no? Così è. No, costa di meno. Costa 135 euro più 20 euro di spese di spedizione, mi pare. E poi se lo prendi invece su Amazon c'è e costa solo 135 euro senza spese di spedizione. Te lo mandano gratis. Sì. Sì, vabbè, ma... a me mi parla bene, anzi non bene, benissimo quella che c'è, perché è molto silenziosa, mi evita parecchi rumoracci che con la mantova uno, tra l'altro la mia era quella proprio originale. Eccellente antenna, eccellente, ma quando la devi tirare su alle mie altezze, oi oi che dolori, che dolori, poi da solo, anche se ci allargano, però... non faticoso di più. Ma non bello lì. Non ho capito, hai detto? Come la finisce, ma non bello lì. Ne ho due, c'ho un sistema elettrico che col cavo d'acciaio e l'altro è il tipico arganetto dei carrelli dei gommoni, che però fatica un po' abbastanza per tirarla su, però mi arrangio, capito? E un po' di forza di braccio ci vuole, lo so, così, purtroppo, anche tu dovevi pensarci a metterci le mani elettriche anche lì. Ma scusa, la Game Master è quanto l'hai tirata su come mix da terra? Dunque c'è il suo traliccio che è 6 metri, a questo 6 metri sta a fiammicare il tubo, poi oltre i 6 metri, ma sarà un 12 metri credo, più o meno. E dicevano che se la tiravi su, si spezzava su, che bisogna metterla a massa, se no si spezza. Comunque io la mia... diciamo che non è proprio rotta e così, era appena appena filata, l'ho messa un po' più indietro, gli ho messo tre fascette d'acciaio e non si muove più, mica ne ha fatto un pezzo in questi giorni, eppure è rimasta sempre lì. Ma l'antenna è buona, non c'ho problemi, l'antenna sono tutte quelle cavolate di gente che la piazza mettendoci tiranti da tutte le parti, quindi non può smorzare il vento, quindi se lo prende tutto. Tra l'altro quando metti i cavi lungo il radiatore, quindi tu, anche su questa parte in vetroresina, anche se il canale da pesca, ma non canale da pesca, scusa, filo lenta, anche quando è lenta, una volta che è bagnato, è come che sia un conduttore, quindi ti varia tutto. Tutto il lobo di radiazione, le stazionarie, tutto quanto. Qua le stazionarie sono sempre perfette, 1 e 1 in tutti i canali, vai in alto, vai sotto, nemmeno 1 e 1, è appena appena di voi, nemmeno 1 e 1, vai in tutti i canali, sotto, sopra, non si muove. è la mia lo stesso, con la differenza che io, come sai, ho anche su quella lo strumento professionale, proprio dalla linea professionale della Raiva, e anche adesso lo sto guardando e non segna proprio, non le segna la stazione. Poi ovviamente un po' c'è sempre, ma siamo a livelli proprio minimi. Sì, ma è normale che appena appena l'ago si muova, ma io quello che ci ha segnato per lo strumento ci ha segnato anche quando uso quello del gas, capito? Infatti, ma è così, va bene, poi anche arriva anche al 21, senza faticare troppo con l'accordatore neanche. Mentre va tranquilla sui 30, sui 40 e così. Sì, si può accordare anche su altre frequenze, certo. Perché dovrebbe essere 26-30, se non erro. Sì, 26-30. 26-30. E quindi è abbastanza larga, dai. Sì, certo. Oh, d'altronde, se così non fosse, non sentirei sempre tedeschi, greci, spagnoli e così via, quindi l'antenna va bene. E nonostante ci abbia la scocciatura, che sicuramente dà parecchio fastidio, dei pini sono anche dei vampiri di RF, non so se lo sai, ma dopo c'è un pino, se ti metti lì con un portatile UHF neanche a balla. Davvero? Sì, tanto è vero che quando sono in bici e trovo la radio, che sono dentro la pinetta di Platamona lì, anche se in alto dove c'è la torretta, ci provo ogni tanto, ma neanche la macchina che ha fatto torre sempre. Quando scendo invece fuori dagli alberi è un'altra cosa. No, attenuano parecchio. Ma proprio il pino di per sé oppure gli alberi, tutti gli alberi, oppure proprio il pino brutto che da prima? Beh, il pino è in maniera particolare, forse perché c'è un grado di umidità, perché c'è tutti quegli affari lì. Capito, è una specie d'antenna praticamente. Mi incolla le onde. infatti. Quest'anno oggi c'è gente su questo, però da basso, che mi dà un po' fastidio. Sul coso lì, come si chiama, sul ripetitore dell'imbara digitale, link nazionale digitale. Sì, le antenne sono belle, il lobby è bello, però adesso se è andata male l'antenna mi tocca rischiare la pelliccia, perché devo salire con una scala di quelle, non so se è presente, da ponteggio, quelle in ferraccio, fino su all'ultimo piano, sganciare le sicure, riscendere e poi con l'argano scendere questo palo, sgombrare tutto, anche la macchina, perché quando arriva a terra è una cosa di non dico di 30 metri, ma di 29, sì, ecco, compresa l'antenna. Sì, io una spesa che devo fare è comprare una scala in alluminio, perché quella che ho in ferro, di quelle allungabili in alluminio, quelli che usavano i cantieri, gli elettricisti, eccetera, quelli lì mi piacciono. Sì, io ce l'ho, io ne ho due, sono tutte e due professionali, e quelle lì veramente sono eccezionali, sono omologate, una è di quelle proprio che dici tu, fa un po' paura, devo dire, perché c'ha l'aggancio tipo a denti, no? Un po' come quelle che c'hanno nel vigile del fuoco. La tiri su, quando all'estremità si aggancia sul piolo ed è leggermente più stretta ovviamente di quella che c'è in basso. Ed è alta, e quando sei su, insomma, se non sei abituato alle altezze ci rimane un po' così. l'altra è più corta e dovrebbe essere, credo, un 4 metri, una cosa del genere. Sì, almeno 7 metri la butto. 7 metri, là, così. Perché da me devi salire poco, là. Saranno 4 metri, che nemmeno 4, insomma. Vabbè, devi salire sul tetto per andare sulla cabina dell'ascensore, là. E poi sono leggere. Vantaggio, sono robuste, hanno i gradini larghi e quindi il piede poggia bene. E poi sono leggere, la metti in spalla anche una persona, ce la fa benissimo a portarla in giro. Deve stare attento, siccome è lunga, magari in un condominio eccetera, dove urti, perché se trova una pezzata te la sfonda, ecco. Sono queste cose, bisogna stare attenti, certo. Cioè, non vai da. Mi ricordo quando ho piazzato la Game Master, ho dovuto alzare un po' il traliccio, no? Componibile, che in realtà è un ponteggio. E c'era Penzoloni, una sbarra laterale. Per un pelo non manicata in testa, quelle, non so se c'è presente, quelli che uniscono le guante dei ponteggi, che sono belle pesanti. Si è sganciata perché dovevo salire proprio a fissarla. Nel frattempo era appoggiata, ma mai dire mai, quando sei giù, nel momento proprio mi ha sfiorato, ho detto, porca la miseria, un altro centimetro ed era fatta. E se devi da capo, chi sa ti si influenza, bisogna stare attenti facendo questi lavori, ma il ponteggio come ce li hai, in ferro o in alluminio? No, sono tutte e due in ferro quello d'almine, con crociere di sicurezza, tutto a morsetti, poi ogni altra varia. Quando lo vedono rimangono un po' così, perché sotto c'è anche un basamento, ho fatto fare un basamento in cemento armato per reggerlo. Ci sono stati un'intera giornata a farlo, mi ha detto il muratore che quello è in grado di sostenere tranquillamente una gru. Vabbè, è meglio esagerare che così. Meglio molto che poco, no? Quindi io ho detto, fatelo a prova di uragano. Beh, cosa vuoi che te ne cade in testa? È normale che uno si prenderà anche la sicurezza per far come si deve le cose. Io ci ho messo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tiranti. La mia, li ho messi sopra e sotto. No, le mie non ne hanno tiranti, sono autoportanti tutte, anche le antenne, anche i pali, l'unico tirante che hanno, se lo vuoi chiamare tirante, è quello per tirare sulla bandiera, che in quello più alto c'è la bandiera, tutto l'altro è relativo, anche perché da me c'è il problema del cavo, anche che sembra così, ma quando inizi a avere 20 metri di cavo attaccato al tubo, anche quello è un bel peso, è un po' pesante. Avanti. Davvero? Ciao Cuca. Buonasera. Già, io in terrazza ho messo un tirante nella... Già, beh, l'ho messo perché si stacca, ma speriamo di no, ci cade giù, ammazza qualcuno. Per sicurezza l'ho messo e così se si spacca rimarrà a Penzoloni. È già leggera quella antenna, non è che sia pesante come quella di Gianfranco. No, io già lo sai, già l'hai visto i tiranti che ho messo io, per carità. Vabbè, li ho messi tutto io. Beh, ho partecipato anche io per quell'antenna, cosa dici? Beh, forse li hai piazzati tu i tiranti, io li ho messi giù e tu li hai messi su. Vabbè, là, alla fine. Comunque stavamo parlando ieri, per quanto riguarda la tua antenna, non era stata, diciamo, piazzata bene, ecco, da, ecco perché si è spezzata. E allora, non è quello. È stato messo un elemento troppo fuori e non ha retto, no? fatto. Ma in effetti non si è spezzata, si è solo filata, che lo sai. Si è filata e basta. E vabbè, comunque è a posto adesso, sì? Sì, sì. E ho fatto l'ultimo lavoro, là. Vabbè, dai, riprendete un attimino, se andate in camera a mettere a caricare il telefono, perché mi serve dopo, per controllare gli orari del tram. Ci sentiamo dopo, là, riprendi. Ciao Gianfranco, riprendi. Luca, ascolta, ma... Vabbè, tu ce l'hai, dai, non te lo chiedo la mia. Dai, dimmi. No, perché Fabrizio sta ordinando degli alimentatori da 50 ampere, mi ha detto di chiedere a me se è seduto a qualcuno. Ah, no, no, già ce l'ho già. No, ce l'ho già, siamo volentieri, non mai faccio niente. C'ho questo qua, poi a casa c'ho quello 25, mi aveva regalato Claudio anni fa, mi aveva dato insieme al coso, al 140. Funziona. Saranno dei problemi prima, però sembra che sia. Che ci sia messo a posto. Perlomeno, non. È a posto, là. Ok, riprendi. Anda bene. Eccolo là, venuto là. Oh Gianni! Sì! Ma lo Smith la dove cazzo ci regola? Lo Smith, aspetta che guarda, ci ho segnato, mi sa che ce l'ho segnato, se ce l'ho, non lo so, ci ho tutti segnati prima. Poi c'è un bel bash, questo cosa cacchio è? E perché questo va così un bel a fondo? Ora, ora. Ciao Claro, che cosa? Già cosa ho venduto? Non mi ricordo. Ah, quello modificato. No, sto usando il Saturneco, il Galaxy Saturneco col microfono normale. Però lo Smith è troppo. I segnali non corrispondono, capito? E quindi me li devo regolare, beh. No, ha fatto a me la domanda Gianni, no. No, no, ancora a casa già. Ma di quel pezzo non c'è, non mi interessa, rimane lì, no? Non è che mi chiede pane, vino, mortadella. Rimane lì e boh. 200 lo do, altrimenti niente, rimane lì. A dire 180, no, 200. Già ci sto prendendo i 15 euro di spedizione, anzi 20 euro di spedizione. VR1, Smitter, AMFM. Ci sei, Cla? Già, a me sta dicendo. Ti stavo rispondendo. Il VR1 è Smitter, AMFM. VR1? Sì. Me l'ha detto sì. Ui, come sto? Dove cazzo ci trova? No, non vedo, non sento, non parlo. VR1. Ecco, VR1, l'ho trovato. VR1 in fondo, sì. Va bene. Ascolta, il 7 come cacchio ne lo tolgo qua? Esce dopo R. Ora, boh. Non riesco qua, boh, non mi ricordo più niente. Aspetta, Claudio, controlla prima di regolare lo smittere, se non è una cazzata, le refeghine, per vedere se è chiuse, e anche lo squelci. Lo squelci deve essere tutto verso l'uno girato. Se lo gira appena di più si spegne, lo squelci ti fa spaventare, quindi non sino all'uno puoi arrivare con lo squelci. Ascolta, è calibrato e dove deve rimanere? È a casino, sai che sta cosa? Oh, allora, calibrato. Ecco qua. Così devo fare. Allora, calibrate, lo devi girare verso sinistra e ti fa lo scatto. Quando fa lo scatto è spento. Ma devo spegnerlo o lasciarlo acceso? Spento. Allora, calibrazione, tutto a dire a dezzi, no? Che... Ecco qua. Ma spento fa fondo scala. Come fondo scala? E allora, va a fondo scala quando è spento. Quindi, ecco, lo devi tenere acceso. Ui, è Gianni. Acceso lo devi tenere appena. Vabbè, io ce l'ho così. Io lo spengo, fa lo scatto e non funziona più. Ed è così che deve essere. Ma tu c'è lo strumento esterno, io devo usare lo strumento della radio, quindi devo tenerlo in acceso, no? Per vedere, vedi? Adesso sono in calibrazione, toh. Allora, calibrazione, vediamo un po', ora, ecco qua, massimo, stazionarie. Dove prendo l'accente qua, vabbè dai, lasciamolo, controllo bene. Ah, ti mando la foto di tutti i... Ehi, ehi, ehi. No, bella, bella, bella, bella. Cioè, led bianchi, almeno vedo, porca miseria. Mario. Dimmi. Insomma, io le diamo o le comete. Io mi ricordo, c'ho un bel ricordo delle comete, sono molto performanti. Costano anche molto più cari, infatti. Le comete sono buone, Gianfra. Sono un bel buone. Io ce l'avevo, capito? Io ce l'avevo. E infatti, quasi quasi prendo questa, costa quanto una 510, ma insomma, sembra decente, anche perché quelle là sono più... Ma adesso guardo, tanto oramai queste antenne lunghe le lasciano il tempo che trovano, dato che c'è poca gente. Non me ne dici tu che dovevi guardare da lì, cosa ci sono qui? Vabbè, comunque se lo devi guardare da lì sì, è giusto che lo apra, però per chiuderlo devi voltare verso sinistra la mano, fa lo scatto ed è spento. E ti ho mandato tutti gli SVR. Sì, sì, l'ho visto già, l'ho visto, grazie, grazie. Allora, ce l'ho buon Gucci, ora. I watt sono giusti, vedi, 9 watt, già va bene. Lo stai regolando? No, sto guardando lo strumento se è preciso, 9 watt segna lo strumento della radio, 9 watt segna lo strumento esterno, per quello mi serviva il calibrate. Sì, è giusto quello strumento, è giusto, se uno vuole non se ne mette nemmeno lo strumento esterno, fa molto bene quello della radio. Infatti, io lo strumento esterno non la devo mettere, se no cosa voto? Armata Branca Leone, per quello ti ho detto se dovevo tenerlo aperto o chiuso. Ascolta, col microfono normale come va invece? Va bene? Benissimo, qua. Cappa del Rogero. Questo cos'è? A cosa serve questo? Che cosa? Questo l'ho toccato, cosa serve? Cos'è questo? Ola, bu. Ecco, cos'è? Bu. Se non mi dici cosa hai toccato, cosa ne so? Ecco, questa leva, ecco, cos'è? Così c'è l'ecco inserito? No, spero di no. No, non si inserisce. Ah, non si inserisce? No. E allora sarà chiuso il trimmer della scheda. Vabbè, devo chiedere al proprietario. Io ce l'ho aperta. E infatti, la scheda qual è? Quella che c'è sul lato del... dove togli le viti già? Non lo so, tanto lui non l'ho mai toccata. Guarda, adesso io ho l'ecco dell'apparato, guarda, si sente. Ehi, è che si sente? No, il mio non si sente nulla. Però qua c'è una scheda attaccata, deve essere quella, il trimmer è tutto a zero. Ma non me l'ha fottuto nulla a me dell'ecco, già la viraggio a radio occolta. Tutto a zero. Poi provo col cacciavite induttivo, si apre, adesso fa la regolazione allo smitter. Continuate a parlare, dai, io così mi faccio le regolazioni. Ehi, io adesso manco che sono con 15, con 9 e sono liscio. Ricordati di segnare che ti arrivavo prima. E dopo il più, cioè più 10, più 20, in mezzo sei tu, liscio. E tu regolatelo così, in base a come ti sta arrivando adesso, te lo regoli, dai. Hai detto VR1? Guarda, c'è il coso, cioè, sì, VR1, lo spinto. Ok, continuate a parlare, dai. Ehi, dai. Regoleggia. Avanti Gianfra, parla anche tu, così ti regola. Regolazione? Anzi, io ne approfitto e vado a mangiarmi qualcosa, che sono già le 7:20. Speriamo che domani faccia bel tempo, e anche dopodomani, e anche domani e dopodomani. Insomma, tutto il mese, così almeno si riesce a combinare qualcosa. Ehi, Gianfra, te lo auguro anche io, dai. E me lo auguro perché voglio uscire in macchina, sono da tanto che non sto uscendo con l'antenna e voglio farmi un giro così. Mi piace quando esco con l'antenna così e farmi un giro a parlare con Furi, eccetera, eccetera. Stamattina stavo parlando, poi mi sono ricordato di parlare dell'autore. poi sono prendere delle medicine e ho preso il tempo lì. Poi dopo mezzogiorno e mezza ci hanno volato. È al massimo già. Che cosa è al massimo? Il VR1. Perché non sale di più? No. Oh, che strano, non sarà al contrario. Poi ce l'hanno educato, ma io non ce la metto le mani. Oh, io vado a mangiare qualcosa, ci sentiamo più tardi eventualmente. Ehi, hai già fra. Perché adesso io quando ti sto arrivando, Claudio? 9. Non ho messo di più. Oh, ho toccato, tu metto VR1, ho toccato ma no, non aumenta niente. Sì, c'è quello lì, guarda, a me me le aveva date Giulio tutte queste cose per regolarlo. Ce le aveva tutte Giulio. Me le ha dettate lui e niente. Me le ho scritte e ho usato anche per abbassare, per alzare i watt, perché quando mi hanno venduto usciva con un watt e mezzo, l'ho alzati, si da 9 e poi l'ho lasciato così, perché da 9 poi andava in banda laterale, schicchiava forte lo stesso, quindi l'ho lasciato così. Non so che ti dica. Non per fare. Claudio, ci sono anche altre configurazioni che si possono fare dalla, come si chiama, RFGIN eccetera eccetera. Guardatelo la tabella che ti ho mandato. Io adesso me la guardo, se ne faccio casino. Non vorrei fare casino, già va bene. No, però è basso, signore. È un po' rimito. No, deve essere giusto, la regolazione, sono una stronzata già. Adesso mi guardo bene il manuale che mi hai mandato tu e poi piano piano mi metto le faccio. Pagata. E se no anche su internet puoi guardare, se ti servono altri trimmer, quelli sono i principali, se ti serve qualche altro trimmer e cosa, guardi su internet, ci sono service. No, ma è più semplice questo già, questo che mi hai mandato tu, capito? Regolazione, galaccia turnacchi, cazzo peggio di me, cazzo la gente direi qui. No, questa va meglio, dai. Questa va meglio. Io l'avevo toccato solo il trimmer per aumentare il watt e basta. Non ho toccato manco quello della modulazione, perché il garage c'ha questo problema che c'ha il modulatore che parte subito, se lo sforzi troppo poi magari ti parte, poi già va bene così. Ah beh certo, no, non devo toccare niente, vedi che c'ho il microfono normale, perché non è che mi fido molto, dai. Mica ci forte il microfono normale. Forte, diciamo. Ehi, c'ho il mic gain al massimo. E la potenza al massimo. Ora, già va bene. Non è quello il problema, questo lo togliamo, ecco SWR, ecco qua, e uno sta segnando, già è giusto. Non è che hanno, perché il trimmer è giusto, non è che hanno abbassato il RF gain, capito? Hanno abbassato il coso del RF gain, boh. È quello che ti stavo dicendo, però se tu lo abbassi e lo alzi, fatti un segnetto con un pennarello, di modo che tu ritorni al punto giusto se non va bene. Perché io c'ho il refrigerino al massimo, il segnale lo abbassa ma non lo aumenta di più, quindi sicuramente è quello che hanno toccato. Aspetta che mi leggo queste cose, dai. Parla che ti registro, dai. Parla io. Parla.